continua. Bella come un giorno d'estate, distante come la Via Lattea. La vita continua, una piccola graziosa. Io adoro che sei alla casa, sole mi guarda fare te. In un caffè, la volta la strada florata, sono stato vicino a te, ma io continuo a vedere. Io continuo a vedere domani, la mani leo mi bacio, curano di Pio. Forse un giorno si vedrà il mio volto tra la folta. Forse un giorno io convedere e a tua piccola novala lontana la mia energia della città Venezia. La la la la la la la la la la la la la. Solitario per amor de Dio, per Dio non vedrà, con il vore di Dio, dammi piace, dammi amore, dammi la vita. Cacate in mano, imprenditi schiaffi, finito con mio partito. La la la.